Non dimenticai, ci è voluto tanto bene. Non ho saputo amar, non dimenticar, ci ho voluto tanto bene. Ma di questo amor, un sol ricordo ti, non legato ancor, fuori tu calor, non dimenticai. La la la la la, la la la la la, la la la la la la, la la la la la la. Ipnosi totale, ipnosi, dimenticai, disperazione, è il desiderio di provare senza misurare le conseguenze. Qualche cosa mi magra, dominato da delirio, non dimenticai. Esplosione, sì, è il sapore di ragazza. Buia è la notte, rosso è tuo bacio, l'alba della maledizione. Non dimenticai, non ho saputo amar la ragazza labbra. Quando la baccaccio mia bocca per lo passo della passione. La la la la la, la mi passione, un insetto che pilota senza cielo, che procura alveare in un certo cuore. Desiderio, seduzione, pio butto nella mia norte barba. Non dimenticai, dal propolo violato, da parte dei nuovi bella coppia del logo. Io solo sulla orbita delle ocle, il catinga glemorchiato. Mangiava molto di ovile antesipo, profondo di vino fantasticavo. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la la la la la la la. Preferisco essere amato, la mancanza è il fantasma della forzina buclo purcheletto, è il pingheletto relativo dell'abria. Mangiati bambino, era l'edeletto, non dimenticai. Casata mi ignota, sin la guata, pistolotto, culattone, finocchio. Non dimenticai, si si separò, si si allontanò. Dimenticai, tanto voglio bene, non dimenticai.